questo. Aliman, cantiamo Fabrizio De André. Sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare.